Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno, buongiorno! Siete nuovamente all'ascolto di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. Una trasmissione pensata come se gli animali contassero qualcosa. Analizziamo il presente, le notizie e l'attualità, avendo in mente la prospettiva della liberazione animale. La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi, Giuseppe Coco, Ilaria Beretta, Valentina Reggioli, Roberta Marino, Gabriele Palloni, Francesca De Matteis e Lorenzo Guadagnucci. La settimana scorsa abbiamo intervistato Nina, una gallina che frequenta caffè, biblioteche, set fotografici, treni, in compagnia della sua amica umana che con Nina cerca di portare l'attenzione sulla condizione di questi adorabili e poco conosciuti animali. Anche in questa puntata parleremo molto di pennuti, di avicoli, ma intanto la notizia che ci sembra più importante ha a che fare con una questione che sta molto a cuore a chi si occupa di liberazione animale. Come forse saprete, chi vuole aprire un rifugio per animali liberati dallo sfruttamento zootecnico deve ottenere un codice stalla, registrandosi come allevatore, anche se sterilizza gli animali e quindi è evidente che non è interessato alla loro riproduzione, una cosa che nel mondo degli allevatori è assolutamente inconcepibile. Esiste dunque una impossibilità normativa di concepire certi animali come non destinati allo sfruttamento, per quanto sia crescente il pubblico dibattito su questo assurdo steccato e siano anche in aumento i casi di maiali, galline come Nina e altri animali detti da reddito che hanno la fortuna di poter vivere con amici umani come altri animali da compagnia. Per discutere di questo e per immaginare nuove normative, il 10 giugno scorso a Roma si sono tenuti gli stati generali del recupero degli animali salvati non a fine di lucro, un incontro necessario organizzato dalla LAD. La nostra corrispondente da Roma, Francesca De Matteis, si è presa un giorno di ferie per andare a seguire il convegno e ne è uscita vittoriosa con una bella intervista a Gianluca Felicetti, presidente della LAD. Innanzitutto abbiamo coinvolto una diversità di soggetti, dalle forze di polizia alle procure della Repubblica, cioè quelle che sono chiamate a effettuare i sequestri e le confische di animali, e poi la rete dei santuari degli animali liberi, quindi una esperienza sul territorio che ha iniziato ad avere questo collegamento, che si occupa in particolare di animali salvati dalla macellazione, quindi da animali ex zootecnici, e poi quella che è invece la rete dei centri di recupero, che nasce dalla fauna selvatica, quindi da centri che sono stati previsti sulla carta da una legge ormai da quasi 25 anni per quanto riguarda la fauna selvatica cosiddetta autoctona, e che però non hanno mai avuto poi un riconoscimento in ambito locale riguardo alle modalità di attivazione del recupero degli animali. E poi quello dei centri per gli animali esotici, per gli animali quindi non autoctoni, quindi gli animali sequestrati da circhi e zoo, da trafficanti di animali, che sono un'altra realtà non prevista da alcuna normativa, ma riconosciuta, diciamo, sulla carta dal Ministero dell'Ambiente. Questo convegno nasce quindi con la volontà di mettere assieme queste esperienze, ognuna con le sue particolarità, con la sua storia, con la volontà di poterle rappresentare, perché questo è un servizio che in genere il volontariato e le associazioni Onlus fanno a titolo gratuito, soprattutto nei confronti dello Stato, che dovrebbe avere proprie strutture e che invece non ha, che dovrebbe pagare questo servizio. Pensiamo solo al sequestro, al mantenimento in custodia degli animali sequestrati, cosa che invece nel 99% dei casi non fa o non può fare a causa di mancanza di fondi. C'è una nostra proposta di carta che da oggi parte per avere il contributo e il sostegno da parte di tutti e poter essere formalizzata ai ministeri a livello nazionale, ministeri dell'ambiente e della salute in particolare, poi alle regioni e ai comuni affinché su questo aspetto si cambi pagina. Un solo esempio per far capire qual è il problema: oggi la LAV, che è stata denunciante e custode giudiziaria di animali sequestrati dai circhi, per il trasferimento di questi animali, per avere più facilità, avrebbe dovuto essere un circo e non un'associazione per i diritti degli animali. Un paradosso praticamente, un vero e proprio paradosso. Un paradosso che è legato al fatto che vi sono normative anche contrastanti, in alcuni casi non vi sono normative, oppure dove fino a ieri lo Stato ha previsto che un animale da circo possa essere solo nel circo e non era contemplato che potesse uscire per qualche motivo dal circo. Così come gli animali destinati alla produzione di carne, di latte, che quando si riescono a salvare sono animali che potrebbero essere presi solo da altri allevamenti, e il paradosso è che i santuari per animali ex zootecnici sono purtroppo equiparati oggi ad allevamenti, nel momento in cui invece fanno esattamente il contrario, cioè non allevano e non macellano gli animali. Quindi ci deve essere una vera e propria politica da parte delle amministrazioni pubbliche riguardo agli animali salvati. Quindi concretamente oggi si inizia un percorso, giusto, con gli stati generali. Quali sono le prossime mosse? C'è un appuntamento di riferimento in cui si discuterà ancora della Carta di Roma? Sì, entro l'anno, nel prossimo autunno, noi vorremmo utilizzare i prossimi mesi per raccogliere le osservazioni, le proposte di modifica, di integrazione rispetto a quella che è una proposta in bozza, e poi depositarla ufficialmente al governo, ma anche a livello locale, alle regioni e ai comuni. Quindi le prossime tappe sono quelle di poter ottenere che alcune normative vengano introdotte, per esempio quella del riconoscimento della libertà degli animali di non poter essere più considerati da qualcosa, animale da compagnia, animale da reddito, animale da circo e così via. In questo quindi riconoscere i santuari, i centri di recupero, definirne le diversità, diciamo, di azione e quindi poi le modalità. Noi riteniamo che, visto il fallimento dell'articolo della legge 189 che avrebbe dovuto far convogliare su un conto corrente dello Stato le sanzioni per maltrattamento, quindi i condannati per maltrattamento degli animali, pensiamo solo a Green Hill, l'ICS incamerato dallo Stato sarebbe dovuto, diciamo, ritornare in servizi per la tutela degli animali. Noi riteniamo che invece, così come avviene in altri ambiti dove si trattano oggetti, quindi a maggior ragione in quanto esseri viventi, per gli animali sia necessario creare questo fondo, che deve essere un fondo di sicurezza creato dal stesso sistema che utilizza ancora gli animali. Remember me, I'm the one that's back from over. Time's gone by and I'm still so far from over. Adesso un appuntamento militante. Se siete interessati alla liberazione animale, quindi segnatevi questa data. Nei giorni venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 luglio 2016 si terrà la 12ª edizione dell'incontro di liberazione animale e della terra. Questo importante incontro annuale tra attivisti ha lo scopo di riflettere sulle basi teoriche e sulle prassi di liberazione dei viventi e della terra, ponendole in relazione con quanto sviluppato da altri movimenti di critica sociale. In particolar modo si discuterà dei nessi tra antispecismo ed ecologia, dell'impatto dello sviluppo tecno-industriale, delle sottaciute operazioni discriminatorie dell'architettura urbana e di come un movimento più consapevole dovrebbe ripensare i termini chiave su cui basa le proprie lotte. Quindi non si parlerà solo della questione animale, ma si allargherà la critica a ogni genere di sfruttamento, immaginando prassi e teorie per arrivare alla agognata liberazione del pianeta. L'incontro, riservato agli attivisti e alle attiviste, si svolgerà presso la Casa del Popolo, la Casona, in via Ponticelli 43 a Ponticelli di Malalbergo, Bologna. Tutte le info su incontroliberazioneanimale.net. So long, I waited so long. stufi della collezione Harmony? Stanchi del commissario Montalbano? Avete già completato l'intera collana di Simenon? Nessun problema. Roberta Marino, la nostra corrispondente da Milano, rabdomante della notizia, darà una svolta alle vostre vacanze. È uscito il primo radiodramma di Roberta Marino? Il dramma per noi è quando Roberta va in ferie e interrompe la fornitura di notizie e interviste. Comunque, la letteratura c'entra, e c'entra anche la questione animale. Sentiamo il servizio. La copertina è gialla, giusto per spazzare via subito ogni dubbio su qual è lo stile del libro. Il titolo, però, lascia al tempo stesso disorientati e increduli. Sotto il nome dell'autore, Remo Bassini, si legge infatti la scritta Vegan, con un'altrettanto esplicita A cerchiata, in rosso, e ancora Le città di Dio. Non è sicuramente un libro di ricette, quindi, tantomeno sembra essere un testo di divulgazione scientifica sul tema dell'alimentazione vegana. Non ci sono dubbi. Il romanzo edito da Trelon è in assoluto il primo giallo ispirato a The China Study, nella cui trama si avverte una manifesta accusa alla ricerca scientifica e alle multinazionali del farmaco. A portare avanti questa battaglia è il protagonista Adriano Bronzelli, il pazzo del fiume, il guaritore, il folle, come lo chiamavano i suoi compaesani. L'uomo che aveva deciso di mangiare solo gli ortaggi che coltivava, che professava un ritorno al primitivismo, che aveva detto che si viveva meglio senza auto, telefono, computer e conto in banca, che si vociferava avesse simpatie per gli anarchici e che per questo fosse tenuto sotto controllo dalla polizia. L'uomo morto in circostanze misteriose e che firmandosi vegan scriveva: «Stanno per sorgere tante nuove e piccole città, fuori dal tempo, con alberi, fiori e orti dovunque. Saranno senza plastica, senza veleni, senza fretta. Si chiameranno le città di Dio o degli orti, non importa. Saranno i semi le monete di queste città». All'autore Remo Bassini abbiamo chiesto qual è la denuncia alla base del romanzo e come si inserisce il tema vegan all'interno di questa critica. È una critica al consumismo e al progresso, soprattutto contro le multinazionali del farmaco. Vegan significa forse semplicemente un ritorno alle origini. I contadini di una volta forse mangiavano la carne ogni tanto, ma erano molto più vicini ai vegani e ai macrobiotici di oggi. Si parla nel libro anche in termini etici di vegan. Non si parla molto in termini etici di vegan perché... Lo confesso candidamente, io sono arrivato a questi argomenti da 6-7 anni, li sto approfondendo, provengo da una cultura contadina, io da ragazzo sono persino andato a caccia, poi naturalmente adesso sono contro la caccia, naturalmente era una caccia diversa, nel senso che i parenti di mio padre quando andavamo giù andavano a caccia, perché così facendo, ammazzando il coniglio, ammazzando il fagiano, avrebbero mangiato la carne che non avrebbero mangiato per tutto l'anno, ecco, e quindi era una caccia diversa, non era una caccia stupida per ammazzare la bestia, anzi no, per cui era quel mondo lì, però quel mondo lì naturalmente non aveva attenzioni nei confronti degli animali, anche se devo dire che mia mamma, quando si uccideva il maiale, e per tutti era un giorno di festa, lei scappava via perché questi maiali li aveva portati al pascolo, poi li aveva cresciuti e sapeva che un maiale è intelligente come un cane e il maiale percepisce il giorno che verrà ucciso, e per mia mamma era un giorno tristissimo. Come sono queste città degli orti, città di Dio? Chiamarle in questo modo non potrebbe far sembrare, come spesso si accusano i vegani, di essere una setta religiosa, comunque una setta. Ma è un giallo, quindi ho giocato un pochettino sull'equivoco. Però per me il città di Dio vuol dire il seme, ritrovare i vecchi semi, il seme dell'orto che deve essere, saranno le monete di questi... di queste città. Ecco, sappiamo benissimo che c'è una lotta per far sparire i semi veri della vera agricoltura, e quindi ha soprattutto questo significato. Nella copertina vegan ha una che è malà anarchica. Il personaggio a modo suo è anarchico, che decide a un certo punto di andare a vivere al fiume, da solo. In città verrà chiamato il fol, perché lui darà delle indicazioni terapeutiche, oppure dirà di non andare a curarsi negli ospedali, dirà di ascoltare di notte il fiume che corre, dirà delle cose appunto da fol. Ma saranno anche delle indicazioni, diciamo, anarchiche, che mi sono servite anche per imbastire il giallo. Ti diranno che sei un pazzo, un portatore di sventura. Lo dicono già. Arriveranno presto le città degli orti? Spero presto, ma al tempo stesso dico che non sarà facile. Contrastare i padroni del mondo è un'impresa ardua, difficile, ai limiti dell'impossibile. I padroni del mondo posseggono televisioni, giornali, controllano internet, corrompono i politici, hanno in mano la ricerca scientifica delle università. Però contrastarli è lo scopo che deve avere ogni uomo libero. Dove sorgeranno le città degli orti? Non lo so, ma sorgeranno. L'investigazione di Compassion in World Farming ha portato alla luce la tristissima condizione in cui vengono fatte vivere le quaglie da uova, e il Corriere della Sera lo ha rivelato nella sezione Animali il 6 giugno scorso, pubblicando un video. Tra il 2015 e il 2016 Compassion in World Farming ha filmato allevamenti di quaglie in 4 paesi europei, inclusa l'Italia. La quaglia è l'animale più piccolo ad essere allevato intensivamente, un primato che paga a carissimo prezzo. Carne e uova di quaglia vengono pubblicizzate come raffinate, prelibate per buon gustai, ma la realtà è fatta da 142 milioni di quaglie da carne allevate intensivamente e di 400.000 quaglie da uova che non escono mai dalle batterie per tutta la loro breve vita. Mentre in natura viverebbero nel sottobosco, negli allevamenti intensivi sono ammassate in gabbie, senza spazio per girarsi e senza la possibilità di esprimere i propri comportamenti naturali. Le gabbie sono così piccole che se le quaglie saltano, sbattono il capo contro il tetto della gabbia. Una quaglia da uova viene macellata a soli 6 mesi, mentre quella da carne a sole 5 settimane. L'investigazione si conclude chiedendo l'abolizione delle gabbie e invoca un allevamento di quaglie diverso. Naturalmente il nostro punto di vista è un po' distante da quello di Compassion in World Farming. Noi siamo abolizionisti, cioè vorremmo abolire gli allevamenti stessi. Per gli interessati metteremo un link all'investigazione nel nostro blog www.restiamoanimali.it. Sul Corriere della Sera di venerdì 10 giugno appare un inquietante titolo: 100.000 pulcini per i poveri. L'articolo si apre citando Confucio: se vedi un affamato, non dargli del riso, insegnali come coltivarlo. Ma chi lo ha declinato in versione carnista è stato Bill Gates, che nella sua veste di filantropo ha avuto la geniale idea di battere la povertà regalando pulcini ai poveri, perché secondo Gates non c'è alcun investimento che ha una percentuale di ritorno come la capacità di riprodursi dei polli. L'uomo più ricco del mondo incita quindi i poveri ad arricchirsi sulla pelle dei poveri polli, mentre Confucio, per la verità, aveva incitato a coltivare riso. Dunque, eventualmente, chi si ispirasse seriamente a Confucio dovrebbe invocare una rivoluzione agraria, con la terra data ai poveri affinché possano vivere di un'agricoltura di sussistenza. Ma Bill Gates su Twitter ha lanciato la proposta di far diventare i poveri del mondo allevatori di polli. Povero Confucio 2.0. sempre venerdì 10 giugno è uscita un'agenzia titolata così: basta milioni di pulcini tritati vivi, dal 2020 aborti preventivi. Come sicuramente molti di voi sanno, nell'industria delle uova non c'è spazio per i pulcini maschi. È un'industria femminista. Dunque, attualmente, il primo giorno di vita i pulcini vengono controllati uno per uno e i maschi vengono uccisi con i metodi più economici e crudeli possibili, come tritati vivi, bolliti o chiusi in sacchi e soffocati. Si parla di centinaia di milioni di pulcini ogni anno. Questi metodi, che sono sempre meno sostenibili per la sensibilità crescente verso il benessere animale, sono oggi finalmente oggetto di dibattiti. A forza di pressioni, la United Egg Producers, associazione che riunisce il 95% dei produttori di uova statunitensi, ha fatto sapere che entro il 2020 utilizzerà una tecnica alternativa di selezione del sesso attraverso un esame delle uova, una specie quindi di aborto prima che l'uovo si schiuda. Le uova scartate potranno poi servire per realizzare vaccini o cibo per animali. Il 17 giugno è uscito in CD il nuovo lavoro di Radiohead, A Moon Shaped Pool, che era già uscito in digitale all'inizio di maggio, un album intimista e realmente triste, come nella tradizione del gruppo. Oramai sono diventati una istituzione e un marchio di fabbrica, e gli album sono sempre più immersi tra lo sperimentale, il minimalismo e la canzone classica. Anche in questo caso i temi sociali non mancano, insieme al dolore personale di Thom Yorke per la fine della sua relazione con Rachel Owen. Nelle puntate precedenti abbiamo già assaporato Burn the Witch. Ora invece vi propongo la dolce e melanconica Daydreaming, dove il dolore per lo stato di salute della terra si mescola con la sofferenza personale. Camilla, prepara i fazzoletti! Thank you. abbiamo parlato molto dello sfruttamento di quaglie, polli e dei macabri retroscena della produzione delle uova. Per non parlare bene e razzolare male, ci sembra quindi arrivato il momento di imparare a cucinare un'ottima frittata cruelty free. Il nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni ci guiderà in questa impresa entusiasmante. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Dopo tanto parlare di galline e uova, era doveroso dare la ricetta di una frittata che le salva entrambe. Per questa far frittata non dovete rompere il guscio, ma aprire il sacchetto della farina di ceci. Gli ingredienti per due persone sono 200 g di farina di ceci, 2 cucchiai di panna di soia autoprodotta, un pizzico di bicarbonato, un cucchiaino di aceto di mele, dell'olio extravergine di oliva, delle verdure di stagione, sale e pepe. Sciogliete la farina di ceci con dell'acqua, fino ad ottenere una pastella liscia e non troppo liquida, simile alla pastella per frittura. Aggiustate di sale e pepe e lasciate riposare per circa 30 minuti. Durante il tempo di attesa potete pulire e saltare le verdure di stagione che più vi piacciono. Ad esempio in questo periodo potete tagliare a rondelle dei cipollotti freschi e delle zucchine con il loro fiore e saltarli in padella con poco olio extravergine di oliva, sale, pepe ed erbe aromatiche. Nel caso degli zucchini consiglio della menta fresca. A questo punto aggiungete la panna del bicarbonato alla pastella di farina di ceci. Mescolate bene e prima di versare l'impasto in una padella antiaderente con olio extravergine di oliva, unite l'aceto di mele. Questo accorgimento renderà la vostra far frittata più morbida. Fate cuocere lentamente su entrambi i lati, coprendo con un coperchio durante la cottura. In alternativa potete versare l'impasto in una teglia unta con olio extravergine e cuocere in forno a 180 gradi per 20 minuti. Due puntate fa avevamo parlato di come la regione Lombardia sta cambiando la sua legge sul randagismo, riportando le critiche avanzate dall'AV e altre associazioni animaliste che stigmatizzavano come tale nuova legge impedisse ai volontari di entrare nei canili, svolgendo il prezioso compito di provvedere alle adozioni. Adesso c'è un'altra notizia che ha a che fare con lo stesso tema. Sembra che la regione Lombardia abbia messo a disposizione una app, Zampa a Zampa, che permette di consultare direttamente dal proprio smartphone le informazioni dell'anagrafe animali d'affezione lombarda, permettendo di trovare in modo semplice e immediato tutti gli animali domestici adottabili gratuitamente sul territorio lombardo. L'app è anche molto utile in caso di smarrimento, consentendo di cercare il proprio animale tra i cani e i gatti smarriti e accalappiati. L'app Zampa a Zampa, ideata da Lombardia Informatica, è già disponibile online. La sensazione e il timore è che le due notizie siano connesse e che si tenda a tecnologizzare la questione della gestione dei randaggi, ma è molto probabile che tra un'app e un volontario il cane scelga il secondo. Siamo in chiusura, prima di lasciarvi enumeriamo le voci che vi hanno intrattenuti oggi, che sono quelle di Francesca De Matteis, Gianluca Felicetti, Roberta Marino, Remo Bassini, Lorenzo Guadagnucci, Confucio, il Radiohead, Gabriele Palloni, Giuseppe Coco e la nostra orientalista Camilla Lattanzi. L'appuntamento è tra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.